24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Buongiorno, sono le 6:31 minuti, è il 7 gennaio e sono qua, sono Alessandro Milan, sono ritornato. E riprendiamo con l'anno nuovo da che cosa? Dai tacchini, ma anche perché c'è stata una svolta e si sono visti Renzi e Bersani, sapete, a Natale. Adesso dovremo aggiornare la sigla perché anche Renzi, questa del tacchino, l'ha capita un po' così. Infatti a pranzo gliel'ha chiesto a Bersani. Il pranzo dovevamo fare dei tempi della campagna elettorale, quindi era il pranzo di conclusione. Dovevo capire che ci faceva il tacchino sul tetto, me l'ha spiegato, adesso sono un uomo felice. E allora, tutto a posto, sappiamo a che cosa servono i tacchini sul tetto, almeno così, così pare. Allora, sono le 6:32 minuti, ben ritrovati, 349-238-6666 se volete per i vostri messaggi, oppure potete anche seguirci su Twitter 24 mattino. Io invece sono Alino Milan, mi trovate su Twitter come trovate su Twitter i nostri ospiti. Questo è il nostro, dovremmo aggiornarlo, non so se più chiamarlo bar in onda, forse bisognerà chiamarlo, sì, il nostro, ecco, questa è la nostra sala cinesca. But please relax. C'è Monti che dice di offrire il caffè volentieri a tutti quanti. La Minetti che ci offre il caffè. Ma sarà forse il caso di chiamarlo bar condicio? È arrivata la par condicio, sta per arrivare la par condicio. Come dicevano i nostri amici Ale Franz, l'attendevo come si attende un infarto, la par condicio. Voglio salutare i due ospiti primi dell'anno per quel che mi riguarda, per il nostro la nostra prima parte di trasmissione. Un graditissimo ritorno, due graditissimi ritorni. Alberto Forchielli, buongiorno, presidente del Osservatorio Asia. Buongiorno. Forchielli, c'è la par condicio. Ma cos'è la par condicio? No, quindi vuol dire funziona. Allora la spiego così, Forchielli, gliela spiego così. Dov'è intanto nel suo peregrinare nel mondo? A Zurigo. Sveglia oggi a 1:30 più o meno, perché... Sì, è dalle 3:30 che sono sveglio. Dalle 3:30. No, beh, in Svizzera non perdonano, c'è un appuntamento alle 8, mi passano a prendere alle 9, mi passano a prendere alle 8:15. Ho capito, cioè, ci mette 5 ore per prepararsi, no? No, è perché, in Cina... Ho fatto i post perché la Cina, la borsa è già aperta e tutto. Allora, funziona così, Forchielli, la parcheggia, la spiego 2 secondi. Allora, sì, adesso lei dice una cosa contro Berlusconi, come al solito, sì, e io subito chiamo Berlusconi, così riequilibro. Ah, è così? Così, okay, riequilibro. Quindi deve dire qualcosa su Berlusconi? È imbassurlito. Cos'è questa? È un verbo che non conosco. Cos'è Berlusconi? Ah, l'ho coniata per lui, imbazzurlito, se non c'è mica più. Imbazzurlito, non c'è più. Sì. Ah, devo subito chiamare Berlusconi prima di chiamare Berlusconi prima di salutare il mio secondo ospite. Presidente Berlusconi, c'è, buongiorno. Buongiorno. Presidente Berlusconi? Buongiorno a tutti. Buongiorno, come ha sentito? Imbazzurlito, credo imbazzurlito, l'ho capita così. Dice sì, io credo che in realtà è un equivoco in cui siano caduti molti, c'è bisogno di un chiarimento su questa mia linea di comportamento. Allora, volevo fare un breve riassunto. Sì, breve però, presidente, perché scusi. Ma certo, breve. Però non mi interrompo, se no me ne vado. Vuole che me ne vada? Non lo so, no, presente, però i tempi radiofonici sono un po'... Allora, l'Italia è il paese che io amo, dove ho le mie radici, per cui se si presenta a colui che io penso l'abbia portato nel baratro, mi faccio da parte e lo sostengo. Anzi no, mi candido io perché ha fatto disastri. No, aspetta, faccio il ministro. Di che cosa? Forse della giustizia? Vediamo, adesso un attimino... L'idea è questa qua, che Monti va avanti grazie al fatto grazie presidente, grazie, scusi se la... No, però così abbiamo riequilibrato, Forchielli, abbiamo riequilibrato per il momento, non ne dica altra, se no mi tocca poi riequilibrare subito. No, per carità. Intanto voglio salutare anche Bimbo Alieno che rientra con noi. Buongiorno Bimbo Alieno, il nostro blogger finanziario, e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, voglio farvi sentire ieri Monti. a Sky TG24. Sapete che è uno dei temi, tratteremo alle 8.30, ne parleremo. Le teleinterviste arrivano un po' dappertutto, sia Monti che Berlusconi fanno interviste un po' dappertutto, interventi dappertutto. Ieri Monti ha parlato di uno dei temi caldi, quello che sarà le tasse, eccetera. Ha detto: ora abbassare le tasse si può, e si può abbassare e cambiare l'IMU. L'IMU va modificata, va ristrutturata, il suo gettito va destinato maggiormente ai comuni e occorre rivedere l'intera struttura fiscale e farlo su un arco di un po' di anni. Ecco, l'IMU va rivista. Tra l'altro l'intervistatore gli chiede anche quanto paga di IMU Monti, sentite. Quanto ha pagato di IMU, lo sa? Parecchio, ma non ho qui la cifra. Ho capito. Se ne occupa mia moglie di queste cose. Allora, Alberto Forchielli, le piace Mario Monti? Mario Monti che è cambiato, mi pare, ultimamente, no? Lo segue anche le sue performance televisive, sì. No? La tragedia di dover trattare con i partiti. Tutto sembra bello e meraviglioso finché poi, no, quando incominci ad andare a fondo, ti tocca dire anche delle stupidaggini. Se non è che la modifica dell'IMU sia il fatto saliente dell'Italia o dalla ricostruzione del paese, capito? Ma qui ha capito, la prima posta. Ma qui ha capito, qui viene fuori il Monti politico, ha capito che sull'IMU gli italiani, come dire, hanno un po' il dente avvelenato, possiamo dirla così, e quindi ha capito che sull'IMU, sulle tasse, sul toccare il portafogli è la cosa che l'ha reso forse più impopolare, anche se poi ha detto attenzione perché l'applicazione dell'IMU deriva da una decisione del precedente governo, insomma, capisce Forchielli, butta sui temi che gli italiani sentono, l'IMU. Sì, certo, la differenza tra un leader e un politico. Un politico segue quello che vogliono gli elettori, un leader impone un'agenda agli elettori. È una grande differenza. Su questa cosa, ma è interessante anche perché tra poco vi dovrò raccontare quella che è l'intervista sicuramente del giorno, vale a dire Corrado Passera, intervistato da Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, che praticamente prende un pochino le distanze da Monti, dice: questa agenda Monti non mi convince. Ma prima, Bimbo Alieno, sulle tasse, si giocherà su questo e su che cosa? Su una serie di, come succede in campagna elettorale, di promesse che poi chissà se verranno mantenute, il consenso elettorale che si giocano sia Monti, sia Berlusconi, sia Bersani? Sì, senz'altro i temi economici saranno super protagonisti, l'agenda Monti di fatto si incentra solo su quella, tant'è che io una volta dissi che l'agenda Monti non è esattamente un'agenda di governo, perché comunque, voglio dire, un programma di governo dovrebbe comprendere una serie di altri argomenti, non so, i patti sociali, si era parlato una volta, no? di convivenza, quindi capire la famiglia come viene organizzata, la fecondazione assistita, sono una serie di argomenti che l'agenda Monti non tocca nemmeno, che sono gli aspetti sociali di regolamentazione della vita del cittadino, no? Si rivolge evidentemente soltanto agli elementi economici, quindi le tasse, senz'altro sono l'argomento principe. Però secondo me la vera svolta è proprio quella anche comunicativa, no? Cioè il governo Monti era molto incisivo e molto, a mio parere, gradevole il fatto che fosse molto schietto, perché non aveva, continuava a dire di non avere aspirazioni politiche e quindi diceva le cose per come erano, punto e basta, senza preoccuparsi che piacessero oppure no. Nelle ultime settimane le cose sono era molto, il governo tecnico, non doveva, esatto, cioè adesso, esatto, era un governo tecnico, sapete oggi non avere ambizioni politiche. Sapete oggi Francesco, quindi, Merlo su Repubblica, chi li paragona, Berlusconi e Monti, a Tom e Jerry, quelli che si inseguono nei cartoni, no, con una serie di dichiarazioni, perché ovviamente Monti ha detto questa cosa sull'IMU. Nel giro di mezz'ora Silvio Berlusconi è apparso in una delle sue innumerevoli interviste in questo momento e ha detto sull'IMU. Berlusconi sull'IMU? Sì. Cosa ha detto? E adesso lo sentiamo che cosa ha detto Berlusconi sull'IMU. qua adesso è una breve dichiarazione ma secca e ficcante. nel prossimo governo abrogheremo subito nel primo consiglio dei ministri l'IMU. Hai capito? Forchielli, primo consiglio dei ministri, l'IMU. Cioè lui la vuole modificare, comuni, noi primo consiglio dei ministri la abrogheremo, punto. Senti, però Alessandro, in realtà la giornata è un'altra. Qua il presidente Berlusconi esonda, manco l'ho chiamato e interviene. Restituiremo l'IMU, sì. No, attenzione, perché restituiremo, qua c'è poco da scherzare. L'ex ministro Tremonti, Forchielli, ha pubblicato sul proprio sito dei moduli per fare un ricorso alla Corte Costituzionale perché tutti gli italiani possano ottenere indietro i soldi pagati all'IMU, perché dice Tremonti è incostituzionale. Forchielli, poveracci chi? Gli italiani che hanno pagato o poveracci? Ma quello che si mette a fare buffetti, no, con il modulo per il ritorno dell'IMU, cioè, personaggi disperati che ormai non hanno più futuro, capito? Quindi, ho capito, ma Forchielli, però qua tra un ma mese non è una roba a sé. Ma tra due mesi qualcuno seria. Bisognerà votare, tra due mesi qualcuno dovremo votare, no? C'è un Parlamento da rinnovare, c'è un nuovo governo che poi il presidente Napolitano dovrà incaricare a fare, cioè, chi facciamo? Guardi. No, beh, le mie scelte le ho già fatte, ma il cioè a Zurigo, in Cina, in America. No, ma io il mio motto è quello di oltre l'Italia per onorarla. Non credo nei sistemi, non credo nel sistema Italia, non credo nel fare il sistema, questo paese non è capace. Uno fa del suo meglio per portare in alto un nome, in fondo non è che ci siano altre cose che possono interessarmi di più. Per quel che riguarda queste cose qui dell'IMU, cioè, il paese ha bisogno di ricrearsi una sfera di competitività, capito come fa a competere nel futuro, come fa a dare da mangiare 60 milioni di persone, come fa a resistere all'urto dell'Asia, come fa a avere a che fare con un'America che tra un po' avrà i costi di manifattura che sono metà di quelli europei. E di queste cose non vede. Questi sono i problemi veri, capito? Vede l'IMU, capito? L'IMU è roba da ridere, capito? L'IMU è proprio l'indispensabile per non far bancarotta domani mattina, capito? Capito? Sì, perché dice di questi temi non vede niente a campagna elettorale. Effettivamente, se assiste a ribaltoni, posizionamenti, la Lega starà col PDL oppure no? E il PD di Bersani chi mette in Parlamento oppure no? Il Berlusconi, cosa? Monti, se fa una lista, tre liste, però dei programmi non si legge nulla. Effettivamente è un po' così. Della situazione di questo paese schiacciato tra dei colossi economici straordinari, con dei vantaggi competitivi come può essere l'Asia, come può essere la Germania, come possono essere gli Stati Uniti del futuro. Cioè, come andremo a vivere, capito? Perché poi il malessere degli italiani è quello. Nessuno ha nessuna chiarezza sul futuro. Cioè, l'IMU è una cosa che ti colpisce. Ma dove va questo paese? Su cosa facciamo leva, capito? Cioè, che cosa andiamo a dire? C'è una visione politica del paese, lei non la vede. Non so, da Cavour in qua non c'è mai stata, capito? No, ma un po' è così, si leggono, leggete i giornali, io li leggo, sono un po' una mezza disperazione questi giorni, tutto ribaltamenti, capriole, riposizionamenti, poi delle stesse persone, sono sempre le stesse. In ogni caso andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi torna anche la nostra segreteria telefonica, sempre più di prima, e poi abbiamo anche oggi una sorpresa, oggi facciamo un esperimento di meta radio, cross radio, in qualche modo ci uniremo le forze con un'altra radio. 24 mattino. Ciao Milan, guarda che qua non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più. Ci vogliono solo tre parole, ma solo tre. Tutti questi politici a casa, a casa, a casa la politica. Questi non se ne può più di questi sanguisughe che hanno succhiato il sangue, ma cosa vogliono ancora? Le ossa? Ma ci lasciano in pace, no? Grazie. Caro Milan, invece di lavorare te ne vai a sciare e torni il 12 gennaio. Non lo sai che cosa ti sei perso? L'agenda Monti, fatta di pelle umana. Ciao Alessandro. Povera Italia, in mano ai ladri, agli ingrati e ai comunisti. Povera Italia. Ciao. Sono Luca da Foligno. Qui ci vuole un partito che rottami tutti i politici. Rottamare i politici, questa è la parola d'ordine. L'unico è o Grillo o Renzi. Le cose sono due. Gli altri non devono esistere. Ciao. Beh, che dire. Tutti contro Berlusconi, tutti contro Berlusconi, tutti contro Berlusconi. Ragazzi, mi giro a sinistra e vedo il ragazzo Berzani insieme a Vendola, insieme alla Bindi e la sua squadra vecchia di 100 anni. Allora a questo punto lo sai che penso? Evviva Silvio Berlusconi, il mio voto è già pronto. Allora, torna la nostra segreteria telefonica, siamo con Alberto Forchielli, siamo con Bimbo Alieno. Volevo, visto che ve l'ho anticipata l'intervista politica del giorno, sicuramente Corrado Passa, vista lo sviluppo economico, che tutti guardavano con attenzione cosa farà, cosa non farà. Intervistato da Ferruccio De Bortoli, dal direttore del Corriere della Sera, pagina 3, un'intera pagina del Corriere, dice: Monti mi ha deluso, soprattutto, certo non mi candido con altri perché non potrei mai candidarmi contro Monti, ma la lista Monti, l'agenda Monti non mi convince fino in fondo, e poi volevo una lista secca alla Camera e una al Senato, mica per esempio le tre liste alla Camera. Il punto più interessante è proprio questo, quando dice Passera doveva essere una cosa nuova, chiara, non legata a strutture preesistenti. Traduco, e non so se Bimbo Alieno mi segue su questo, traduco, vuol dire questi politici fanno proprio schifo. Anche Corrado Passera dice così, voleva una cosa nuova, e invece forse vede Monti che, in questo caso con Casini e Fini, sta mettendo in piedi un qualcosa di non nuovo, dice Corrado Passera. Come si può leggere, Bimbo Alieno, questa uscita, la prima uscita pubblica di Passera sul destino di Monti, il destino politico di Monti? Ma guarda, in realtà io ero convinto che Passera fosse quello che più di tutti aveva seguito questa strada del governo tecnico per cercare un futuro politico. Quindi forse è quello che si è sentito, come dire, bruciata la strada da questa virata di Monti, che per mesi e mesi ha ripetuto e ribadito che non aveva velleità, che non avrebbe proseguito l'esperienza, che il suo governo finiva in primavera e la sua esperienza con anche, e non lo so, forse si è sentito un po' pestare i piedi e come dire venire meno le promesse fatte all'inizio. Sì, cioè, in realtà c'è, cioè, nell'intervista, appunto, questa è una domanda che gli fa anche De Bortoli, lei voleva forse più spazio? No, ma non è questione di spazio, magari in realtà è un no che vuol dire beh, in realtà voleva più spazio. In realtà, dice Passera, hanno vinto le vecchie logiche, le logiche di corrente, cioè aggregarsi ai partiti, un qualcosa che non piace al ministro, che dice ora per il mio futuro ho ricominciato tante volte, sono pronto a rifarlo, voglio dare un contributo al paese ma non svela come, si vedrà presto. Certo, dice, non mi candido assolutamente con altri, si ipotizzava anche che potesse essere il candidato del centrodestra di Lega e PDL uniti, ma Corrado Passera dice no. Ma udite perché c'è una notizia, se vuoi, la notizia del giorno in questo marasma della politica. Sapete forse, vi faccio un quiz, sparate, sapete forse chi si candida? Forza Forchielli, tanto si candida un po' tutti in politica, indovini un po' chi si candida, forse, prova a dire un nome, il primo nome che le viene in mente. Centano. No, non era male questa di Adriano Celentano. Ma che cavolo. Non era male, questa c'ha una sua genialità, Adriano Celentano. Bimbo Alieno, vuoi dire un nome, il primo nome che ti viene? Ma guarda, sono veramente disarmato. No, però Adriano Celentano non era male. No, vi faccio sentire, magari un audio lo riconoscete subito. Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vada a bordo, cazzo! Il comandante De Falco, Schettino, forse, scrive Repubblica, si candida con Monti. Vada a bordo! Perché è il simbolo di un'Italia che si fa valere e fa valere i veri valori, mica come il comandante Schettino. Lui vada a bordo, cazzo, vada in Parlamento. Comandante De Falco, forse, forse è un'indiscrezione, Forchielli. No, non lo so, però. No, no, c'è scritto su Repubblica. No, potrebbe essere simpatica. Ma io dico, ma no, adesso con massimo rispetto. L'antischettino. È l'antischettino, l'antischettino. Non sarebbe male. Ricordiamoci, ragazzi, che nelle riviste internazionali, quando fanno il ripasso degli eventi salienti del 2012, per l'Italia fanno vedere la Concordia. Una figura di merda che, capito, senza le volte mi tocca chiudere, capito? Fa vedere le foto con gli eventi dell'anno e per l'Italia fa vedere il guscio rovesciato della Concordia. Io schettino, lo strangolo con le mie mani, capito? Beh, in realtà no, poi non so se esiste la par condicio che adesso dobbiamo chiamare il comandante Schettino. Chiami il comandante Schettino, glielo mandi a dire. Capito? No, credo. Credo, spero di no. Forchielli lo strangolerebbe con le sue mani. Con le sue... Figura, cioè, atroce, capito, dell'italiano. Diciamo che se Schettino si fidasse. No, però io dico, Bimbo Alieno, se dovessimo se si arriva a candidare col massimo rispetto, il comandante Falco avrà fatto una carriera da militare straordinaria, ma se uno deve arrivare a candidare il comandante De Falco perché è l'emblema di un'Italia che reagisce con il suo vada a bordo cazzo, io dico allora scusami, è un tecnico che nel momento in cui l'Italia va alla deriva può benissimo, sì, ma è un teatrino o è la politica? No, ma però prima di, perché sennò sforo, devo farvi sentire questo esperimento di Meta Radio, di Cross Radio, venerdì su Radio Italia, la mia, no, amica di Twitter Paoletta, con Patrick, che conduce un programma molto seguito, è nato in onda questo, ve lo voglio fare sentire perché dobbiamo fare questo esperimento, no, di unirci, unire le forze. Cioè, Paoletta sono giorni che sta facendo stalking su Twitter a un noto conduttore radiofonico di un'altra emittente. Ma come ti permetti? Ma fatti gli affari tuoi, scusa. È una cosa grave. Ma io scrivo i tweet a chi mi pare. Lui si chiama Alessandro Milan ed è un conduttore di Radio 24. Ho capito, e che male c'è se mando un tweet ad un conduttore di Radio 24? No. Scusa, l'ascolto la mattina, fa la rassegna stampa, ho bisogno della rassegna stampa da ascoltare in macchina, viaggio tanto, 2 ore quasi di macchina. Ma è quello che scrive, dovete leggere, è pubblico, è su Twitter, quindi lo potete leggere anche voi. Stamattina gli ha scritto, senti, perché adesso è in ferie questo conduttore, senti, ma quante ferie fai? Non ne possiamo più, torna. Dai! Cioè, ma scusa, ma sei una conduttrice di Radio Italia, ma twitti al conduttore di un'altra radio. Ma in effetti in questa frase sembro una fan di Justin Bieber. E lui risponde, mi vuoi far svegliare alle 5 a tutti i costi? Le mie occhiaie ringraziano. E lei, anch'io le ho, ma le copro al volante mentre ti ascolto. A proposito, scusa, basta il volume, grazie. Milan, ma mi vuoi rispondere? Sei sparito. Ma la smetti. Ma tu hai scritto una cosa così carina. Davvero io le occhiaie le copro mentre ti ascolto? Stamattina non le ho coperte e sono qui senza trucco. Torna. Ma ci rendiamo spicciati. Eccomi qua, sono tornato, è tornato anche il nostro Alberto Forchielli. Devo chiudere, com'è che è, Forchielli, il verbo imbazzurlito? Ma che vuol dire? Imbazzurlito, è da analizzare, sì. Poi glielo spiego. Ma ha un senso, non so, in bolognese, no. Porca boia, ha un senso tagliente, ficcante proprio, capito? Che non lascia spazio alla minima interpretazione, minimo dubbio. Grazie Forchielli, grazie Bimbo Alieno. Ci ritroviamo dopo le 7. Saluto anche Paoletta. E ci ritroviamo dopo le 7 per la rassegna stampa, sì, 7:20. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia Cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. Ventiquattro Mattino. l'Italia si desta. E allora eccoci qua alle 7:22 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, la rassegna stampa in questo lunedì 7 gennaio. Vi ricordo che avremo ospite alle 8:15 Renato Brunetta del Popolo della Libertà e poi parleremo di esondazione in TV, di interviste in TV di Silvio Berlusconi, ma anche di Mario Monti. Insomma, non passa giorno senza che non ci siano apparizioni televisive. Sono soprattutto loro due, coloro che stanno prendendo la scena con interviste un po' ovunque. Insomma, vi piace questa campagna elettorale molto mediatica, molto per il momento televisiva. C'è stato anche un giallo con ieri, giallo, insomma, ieri doveva apparire Mario Monti a Domenica Inda, Massimo Giletti, che sarà il nostro ospite alle 8:30, ma poi siccome era un giorno di festa gli è stato proibito. Insomma, questa campagna elettorale che ci porterà alle elezioni del 24-25 febbraio con tanta, tanta TV. Di questo parleremo più avanti, ora i giornali per l'appunto. Come detto, lunedì 7 gennaio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre con le pagelle ai politici locali, l'iniziativa annuale, bocciati sindaci e governatori, vedremo qual è la classifica, consenso giù in oltre il 60% delle amministrazioni. E poi gli altri giornali aprono così, il Corriere della Sera con un'intervista al ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, intervistato dal direttore Ferruccio De Bortoli, l'agenda Monti così non va, parla per la prima volta pubblicamente Passera ed è una presa di distanza anche dal suo premier. Repubblica, Monti promette ora meno tasse, il Messaggero, Monti cambiare l'IMU, la Stampa, Monti IRPEF giù cambiare l'IMU, e sono gli effetti appunto delle interviste di ieri. Monti, così cambierò IMU e IRPEF anche per il secolo XIX, mentre il Giornale, il PD è ostaggio dei rottamati, l'Unità invece sull'inchiesta che coinvolge i soldi pubblici usati dalla Lega, Lega inquisita corre dal Cavaliere, mentre il Fatto Quotidiano del lunedì, Frega Italia, è un numero quasi monografico sulla truffa Italia come sport nazionale italiano, la truffa. Ma udite udite, torna il mantra, mani sul volante, ben aggrappate cari ascoltatori, perché sto per leggervi l'intervista che ha rilasciato il comandante Francesco Schettino. È quasi un anno dalla tragedia della Costa Concordia al Giglio e Schettino torna a parlare, lo fa con La Stampa, pagina 13, eccolo qui, intervistato da Grazia Longo, udite udite, il comandante dice mi hanno trattato come Bin Laden, parola di Francesco Schettino. Dice che è stanco di essere definito un guascone, dice che non ne può più delle barzellette sulla sua telefonata con il comandante De Falco, l'abbiamo sentita anche prima alle 6:30. Dice che non è l'unico ad aver sbagliato, dice che nonostante tutto ha fiducia della giustizia, ma soprattutto dice che da un anno non fa che pensare a loro, alle 32 vittime e alle loro famiglie. Eccolo qui, il comandante Schettino. Il sentimento che ha caratterizzato l'ultimo anno è il tormento per quel che è accaduto il 13 gennaio, un dolore sincero. Mi hanno dipinto peggio di Bin Laden, mentre il mio rammarico per quello che è successo è enorme. Rinnego l'immagine che mi hanno cucito addosso, ridicolizzando 30 anni del mio lavoro, la mia esperienza in tutto il mondo, l'immagine del nostro paese esposto alle critiche. Anche la storia della navigazione turistica, dell'inchino all'isola, è tutto un fraintendimento, dice Schettino. Avvicinarsi a 0,3 miglia era una pratica consolidata. E poi sull'abbandono della nave, certo mi sono espresso male quando ho detto che sono scivolato sulla scialuppa, evidentemente avrei dovuto spiegare che si trattava dell'effetto della forza di gravità. Lei ha presente come si era inclinata la nave quella sera? Chiede Schettino alla giornalista Grazia Longo. Il calpestabile era diventato un muro e nella parte dove mi trovavo era impossibile restare a bordo. Sì, però quando lei era al sicuro sugli scogli del Giglio, sulla nave c'erano ancora molte persone, chiede La Stampa. E beh, spettava agli elicotteri portarli via, invece tutti addosso a me. Non mi sono mai ubriacato, non mi sono mai drogato in vita mia, eppure solo a me venne fatto l'esame per accertarlo. Perché agli altri no? Il comandante era lei. Sì, ma gli ufficiali a bordo hanno un ruolo e comunque le regole vanno riviste, dai compiti del comandante alla conta dei passeggeri alle modalità di evacuazione. Dopo il naufragio del Titanic è successo questo, molte cose sono state rivalutate, lo stesso si dovrebbe fare ora. Comunque, l'inchino tutti lo facevano. Parla il comandante Schettino, che dice: non sono fuggito dalla nave, ma soprattutto mi hanno trattato peggio, peggio di Bin Laden. Lo trovate sulla stampa, ma è un paese straordinario l'Italia. Guardate che ci sono delle notizie che riguardano Schettino anche su Repubblica, dove l'abbiamo detto anche alle 6.30. Forse tra le ipotesi di candidatura nella candidatura al Senato con il listone Monti potrebbe entrare anche chi? Il comandante De Falco. Ebbene sì, quello del vada a bordo, beep, no? Detta alla famosa telefonata al comandante Schettino. Eccolo qui, c'è la foto di Repubblica, pagina di De Falco su Repubblica, pagina 7. In forse il capitano De Falco, si dà più in forse, si è in tutto un articolo in cui si analizza le liste, visto che mancano pochi giorni, bisogna presentare le liste. E per quel che riguarda il Senato, dove ci sarà un listone unico della formazione capeggiata da Mario Monti come candidato premier, i centristi volevano il 40%, la truppa di Fini il 15%, si parla del cosiddetto manuale Cencelli, al quale Mario Monti avrebbe detto di no, perché Mario Monti starebbe vagliando personalmente i 2200 curriculum che sono arrivati, e tra questi pare si vocifera anche quello del comandante De Falco, diventato l'emblema degli italiani responsabili, quando intimò di tornare a bordo al capitano che viene definito Gennaro Schettino. Non si sa perché Gennaro Schettino, in realtà Francesco Schettino, in questo articolo di Annalisa Cuzzocrea. Insomma, forse il comandante De Falco viene candidato per andare contro a colui che si definisce trattato peggio di Osama Bin Laden, il comandante Schettino. Non è sempre un paese straordinario quello in cui si scopre, d'articolo del Quotidiano Nazionale, io l'edizione del Nord, il giorno che, ricordate la famosa partita amichevole pro patria a Milan, che sarebbe passata nel dimenticatoio per... tranne che però c'è stato quell'episodio dei Boateng ha lasciato il campo. Ebbene, razzismo alla partita del Milan, tra i denunciati un assessore, è un assessore della Lega di Corbetta, pagina 11, fa l'assessore allo sport. Ma è un paese veramente incredibile, fa l'assessore allo sport e alle politiche giovanili, uno degli ultras della Pro Patria denunciati per i cori razzisti durante Pro Patria Milan. Si tratta di Riccardo Grittini, 21 anni, che ricopre il ruolo di assessore al comune di Corbetta in provincia di Milano da quando è succeduto l'assessore Crusco, e dice: in realtà nulla, non ho nulla da dire su questa vicenda, se ne sta occupando il mio avvocato che mi ha detto di non dichiarare nulla su questo fatto né sul mio ruolo istituzionale. Eccolo qui, dal momento in cui maggiorenne, racconta il giorno, è diventato militante della Lega, partecipava alle attività della locale sezione leghista sin da quando aveva 16 anni, è diventato assessore ed è uno dei 6 indagati per razzismo, ultra della Pro Patria e assessore allo sport e ai giovani del comune di Corbetta. Evviva, ci fermiamo per qualche minuto e riprendiamo dopo la pubblicità e il meteo. Eccoci qua allora alle 7.34 minuti, continuare la lettura dei quotidiani che sono dedicati in gran parte alla politica. Io l'ho già detto anche prima delle vacanze e oggi che rientro, ma anche durante le vacanze, e sarà sempre più così, mi sembrano pagine dedicate alla politica più che altro ai riposizionamenti, alle capriole, alle giravolte, agli snodi di come ci si riposiziona al centro, centrodestra, centrosinistra, ma dei contenuti politici per il momento se ne vedono pochissimi, quasi nulla, come ieri Ernesto Galli della Loggia segnalava sul Corriere della Sera in prima pagina, cioè tutto su dove vanno, con chi si alleano, chi, ma sui contenuti, sulle proposte politiche per il momento davvero zero. Intanto oggi voglio partire dal Sole 24 Ore, perché c'è il sondaggio annuale, il Governance Poll del 2012, vale a dire la pagella ai politici locali che ogni anno sul Sole 24 Ore viene fatta. E allora IPR Marketing ha realizzato anche per quest'anno la pagella. Bocciati sindaci e governatori, questo in una visione generale è il titolo di prima pagina, perché il consenso è sceso in oltre il 60% delle amministrazioni. Soprattutto, si legge a pagina 2 nei dettagli della classifica, le regioni dove i tanti scandali hanno portato a un calo di consenso, a una percezione dei cittadini davvero negativa nei confronti di molti governatori. E tra l'altro, scrive Gianni Trovati, 42 punti in meno rispetto alle elezioni accumulate da 9 presidenti su 14 che perdono terreno. E pensate, i numeri sarebbero stati peggiori se le cronache, se si fosse presa in considerazione anche la Lombardia e Lazio, dove le cronache dell'ultima stagione degli scandali regionali hanno rimbalzato proprio tra Roma e Milano. Chi è in testa come consenso tra le regioni? Al primo posto Enrico Rossi, vale a dire il presidente della Toscana, che in realtà perde lo 0,7% di consenso, ma è ancora in testa. Secondo in Veneto Luca Zaia, al terzo posto per l'Emilia Romagna Vasco Errani, poi le Marche con Gianmario Spacca, al quinto posto in la Liguria. Tra gli ultimi, al 13° posto l'Abruzzo con Giovanni Chiodi, al 14° la Sardegna con Ugo Cappellacci, alle prese anche con i problemi, l'Alcoa, il Sulcis, il Nel Nuorese, Aurosei, i porti del nord, insomma, scrive il Sole 24 Ore, sconta soprattutto questi deficit politici. Mentre per i sindaci è la fiducia in calo nel 2/3 dei casi. L'effetto delle urne: 8 dei 9 politici locali più apprezzati sono usciti dalle amministrative della primavera del 2012. Al primo posto del sindaco più apprezzato, secondo questo governance poll, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, al 72% di consensi. Al secondo posto è l'effetto novità che fa volare Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, nonostante i problemi gravissimi, la lunga stagione da sindaco già vissuta dal 1985 al 2000, è al secondo posto. Al terzo posto Agrigento, Marco Zambuto. Al quarto posto per Verona, Flavio Tosi. Al quinto posto tra gli apprezzati, Mario Lucini, vale a dire il sindaco di Como. Tra gli ultimi posti invece si trovano Mantova, Prato, Caltanissetta, Catania, Messina e Foggia, l'ultimo posto come apprezzamento. Insomma, questa è la classifica, poi le potete vedere tutte nel dettaglio, gli apprezzamenti ai sindaci e ai presidenti di regione. Per quel che riguarda la politica, però, la notizia del giorno sicuramente è l'intervista del giorno, è l'intervista che il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli ha fatto al ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, perché è la prima volta che pubblicamente Passera parla della lista, dell'agenda Monti, e lo fa in termini non proprio convincenti. Il titolo di pagina 3 infatti è "Lista di Monti, occasione persa". Questo è il giudizio di Passera: serviva un programma più coraggioso, si è persa una grande occasione. Inizia così la chiacchierata di Passera con il direttore del Corriere. "Io credevo al progetto di una lista unica Monti, sia alla Camera sia al Senato. C'è un grande mondo che non si riconosce né con la sinistra, soprattutto se condizionata dalle componenti estreme, né con l'antipolitica, né con Berlusconi. Avevo dato la mia disponibilità a candidarmi, senza pretese di ruoli presenti o futuri. Ma ora no. Durante la riunione hanno prevalso le posizioni di Montezemolo, di Riccardi, di Casini. Ho preso atto, me ne sono tirato fuori, ma non farò mancare il mio sostegno a Monti." Dice Passera, insomma, è un'occasione mancata perché non si è creata quella nuova formazione forte e chiara che io auspicavo, ma un insieme di liste collegate che certamente faranno un buon lavoro, rimanendo però esposte alle vecchie logiche di corrente. Racconta ancora il ministro: "Il mio rapporto personale non è mai venuto meno con Monti. Mi è stato anche chiesto se volevo entrare in lista, ma ho detto di no. Non accetterei comunque altre candidature, perché non accetterei mai di candidarmi contro Monti." Risponde così Passera all'ipotesi che avevano avanzato Tosi della Lega e Galan del Popolo della Libertà come possibile candidato su un'unione PDL e Lega, ma risponde Passera: "Stesso discorso, Berlusconi non lo sento da un pezzo." Racconta anche dei rapporti con l'esecutivo: "Tutti buoni, anche col ministro Grilli. Ho avuto solo problemi con la struttura del Ministero dell'Economia, ma mai con Grilli." Insomma, un Passera che critica anche l'agenda Monti: "Ci sono tante cose buone, ma tante cose che mancano, per esempio sulla lotta ai costi e agli sprechi della politica. dovevamo essere più coraggiosi, è un'agenda troppo timida e vaga, e poi ancora doveva essere una cosa nuova, chiara, non legata a strutture preesistenti, con figure di primo piano sia della società che della politica, ben inteso, in particolare del mondo delle imprese, delle professioni, dell'economia sociale. Ma oggi, grande attenzione ai temi della famiglia, della solidarietà, oggi non sono rappresentati come sarebbe giusto che fosse. Avrei voluto anche un programma in alcune parti più coraggioso, insomma una svolta radicale. E dunque il ministro Passera, che poi dice per il futuro comunque ho in mente delle cose per servire il mio paese, non dice quali. Ho ricominciato tante volte, sono pronto a rifarlo dando un contributo al paese. Parla dunque, e non sono parole di grande elogio, Passera, che comunque dice la mia stima per Monti rimane, lo sosterrò, ma spiega perché non farà parte della partita politica. Ieri avete visto Monti in TV? Perché non passa giorno senza che Monti, per la verità anche rintuzzato subito da Berlusconi, sono i due protagonisti che per il momento stanno prendendo la scena televisivamente parlando, ha parlato di tasse. L'IMU può essere cambiata, si possono dare più soldi ai comuni, ha detto comunque l'IMU è una cosa che è imputabile al governo precedente, l'IRPEF si può alleggerire, l'IVA si può, l'aumento dell'IVA si può congelare, insomma per qualcuno sono le classiche promesse da campagna elettorale, no? Quando si dice e si va a cavalcare la questione delle tasse. Staremo a vedere, noi parleremo di esondazione di informazione televisiva per il momento in questo inizio di campagna elettorale, mentre dicevo che sui giornali è tutto un racconto di come si cerca di trovare la quadra, sarebbe un termine utilizzato dalla Lega vecchio stampo da Umberto Bossi, soprattutto tra PDL e Lega. Ieri c'è stata una cena, un vertice ad Arcore per l'intesa obbligata, il punto chiave è il ruolo di Silvio Berlusconi, cioè si deve candidare lui premier oppure, come dicono molti leghisti di fronte alla candidatura a premier di Silvio Berlusconi, allora l'accordo Lega-PDL non si può fare, come ieri ha ribadito Salvini. Questo è uno dei temi politici, se siete appassionati, su molto, molto gettonato dai giornali. Anche per il giornale a pagina 3, la cena di Silvio e Bobo, patto PDL-Lega al traguardo, all'incontro ad Arcole tra Berlusconi e Maroni, ci sono anche Alfano, Verdini, Calderoli e Angelino twitta da tavola per difendere gli alleati dopo le inchieste giudiziarie. Eccolo qui, inchieste giudiziarie, la parola magica che è un po' la chiave di quello che sta attraversando la Lega, perché da ieri Repubblica ha svelato che la Procura di Roma sta indagando sulle dichiarazioni di una ex segretaria della Lega e sull'utilizzo dei fondi pubblici, fondi del Senato, che, racconta questa ex segretaria leghista, venivano utilizzati in realtà per spese personali. Questo è il succo dell'inchiesta. Ovviamente la Lega si difende dicendo è assolutamente una vendetta da parte di una ex dipendente che è stata cacciata, ex dipendente che oggi parla a Repubblica. Carmelo Lo Papa l'ha intervista, si chiama Manuela Privitera, ex segretaria amministrativa del gruppo della Lega al Senato. Ecco il sistema dei Lombard, soldi su un conto corrente ombra e bonus per comprare le lavatrici e le TV. Parla la ex segretaria del gruppo, una lunga intervista interrotta più volte dal pianto, racconta l'inviato di Repubblica che va a chiamarla, che va a trovarla. Io ero una semplice segretaria amministrativa, eseguivo ordini e disposizioni, tutto porta le firme dei leghisti, ero una semplice esecutrice, ma ero una testimone diretta. A un certo punto, racconta questa segretaria, hanno iniziato dei prelievi in contanti, io li prendevo, li giravo su disposizione ai senatori Bodega, al senatore Mazzatorta e dal dicembre 2011 anche al senatore Calderoli. Bricolo, che era il capogruppo, convoca a un certo punto il tesoriere Stiffoni e in mia presenza annuncia: dobbiamo aprire dei conti paralleli, dobbiamo fare degli accantonamenti. Ecco i conti correnti, erano tre: uno ufficiale che veniva utilizzato per i prelievi in contanti, tutti tracciati, poi un conto parallelo, infine un deposito titoli. E poi l'accusa: venivano corrisposti in contanti degli extra. Bricolo, cioè il capogruppo, tratteneva per sé 2028 euro, Bodega 778 euro, Mazzatorta 638, questo ogni mese. E racconta poi di soldi che sono stati utilizzati per fare dei regali. Bricolo decide di regalare a ciascun senatore 4 buoni da 500 euro tramite una carta Media World. Per evitare di far trapelare che la Lega regalava ai propri parlamentari elettrodomestici per 2.000 euro, esiste una fattura intestata al tesoriere Stiffoni da 50.000 euro. Tutto ovviamente è poi da confermare, la Procura di Roma sta indagando e su questo anche la stampa titola la segretaria che inguaia la Lega, l'Unità mette la notizia in prima pagina. La Lega inquisita tratta col Cavaliere, risponde molto piccata e molto secco su Repubblica il senatore Calderoli e da lui ripartiamo dopo informazioni sul traffico. E allora risponde Roberto Calderoli, ex ministro, intervistato da Andrea Montanari su Repubblica. Ogni mia spesa è documentata, queste sono accuse a orologeria. Mi amareggia tutto questo, avevo già chiarito anche davanti ai nostri militanti. Tutto ciò che ho ricevuto dal gruppo è stato speso per acquistare del materiale elettronico per il gruppo. Tutto regolarmente pagato, fatturato e restituito con un bonifico bancario. Io non c'entro. Riguardo al denaro per pagare l'affitto delle case, probabilmente la signora che sta dicendo queste cose ai magistrati, visto che nel frattempo era stata allontanata per una vicenda di appropriazione indebita, non ha visto le fatture e i pagamenti. Questa inchiesta, dice Calderoli, è nata perché il nostro capogruppo al Senato Bricola ha fatto una denuncia alla Procura di Milano contro questa signora. Non c'è nulla di nuovo. Vabbè, staremo chiaramente a vedere gli sviluppi. Certo, è una vicenda sulla quale la Lega dovrà rispondere in questo momento, soprattutto di campagna elettorale. Non è una vicenda molto comoda da gestire anche mediaticamente. A proposito di mediaticamente, noi parleremo alle 8.30 di questa campagna elettorale, per il momento decollata di colpo, soprattutto con le tante interviste improvvise di Silvio Berlusconi, alle quali poi sembra aver risposto anche Mario Monti con interviste più o meno quotidiane. Ieri è saltata quella da Massimo Giletti all'Arena su Rai 1 perché era un giorno di festa e dunque la Rai aveva imposto durante i giorni di festa di non invitare politici. Certo che però su questo tema molti commentatori si sbizzarriscono. Per esempio Francesco Merlo su Repubblica parla e prende spunto dall'ultima battaglia sull'IMU di ieri a Sky. Monti prometteva di abbassare le tasse, era Tom che inseguiva il suo Jerry, no? Avete presente Tom e Jerry, sin nella tana della demagogia. Dunque Monti ieri nell'ennesima teleintervista faceva la mossa, non da Sciantosa ma da Berlusconi: l'IMU va modificata e assegnata ai comuni, l'IVA va congelata, l'IRPEF va abbassata di un punto. E Berlusconi, inarrivabile, replica Merlo, spiegava con naturalezza gaglioffa che l'IMU va abolita. E dalla sua millesima vetrina televisiva elettorale sosteneva che in Italia c'è il terrorismo fiscale, con un'uscita perfettamente calata nel ruolo del filibustiere. Insomma, li paragona Tom e Jerry che si inseguono invadendo gli spazi televisivi con una dichiarazione dietro l'altra. Ma pare che questo sia un tema che sta creando un po' di malumore all'interno della compagine montiana. Almeno racconta il secolo XIX in un retroscena firma Vittorio De Benedictis a pagina 3, il prof silenziato dai suoi fedelissimi che gli hanno consigliato: basta queste uscite televisive, soprattutto non aggredire più. E infatti, racconta il secolo, ieri già nell'intervista di Sky è tornato il Mario Monti sobrio, professore, conosciuto nei 13 mesi di governo, più contenuti, meno attacchi personali. Anzi, nessun attacco tipo il riferimento alla statura accademica di Renato Brunetta, che sarà nostro ospite alle 8.15, o le liste di proscrizione del PD con l'indice puntato su Fassina e Nichi Vendola, o la CGIL e la FIOM. A Sky TG24 ha parlato un professore pacato. Questo, secondo il secolo, è frutto anche dei suoi fedelissimi che gli hanno detto: basta inseguire su questi toni Silvio Berlusconi, non essere così aggressivo. Staremo a vedere se questo avrà effetto. Ha avuto effetto invece, l'avete vista la foto un po' buffa, un po' bizzarra, di Mario Monti che telefona, risponde al telefonino dentro la Basilica di San Pietro. La cerimonia non era in corso, ovviamente, non è ancora iniziata, e c'è questa foto con la moglie Elsa che lo guarda di soppiatto, gli dà un'occhiata che, ecco, quell'occhiata delle mogli che tutti conoscono, tutti coloro che hanno una moglie conoscono, e che vale molto più di 5.000 parole, no? Quell'occhiata, come dire, cosa stai facendo? E infatti sembra quasi un Mario Monti poi che abbassa lo sguardo. Tra l'altro Mario Monti che ieri anche nell'intervista a Sky ha riconosciuto il ruolo centrale di Elsa, la moglie, no? Quando ha risposto alla domanda sull'IMU, quanto ha pagato di IMU, e lui ha risposto: non lo so, se ne occupa mia moglie, che ha definito uno dei miei due presidenti, cioè uno è il presidente Napolitano e l'altro è il presidente in casa mia, cioè mia moglie, no? Questa idea di un Monti che risponde al generale Elsa, moglie di Mario Monti. Che guardatela quella foto con Mario Monti al telefonino, faccia bassa dentro la Basilica di San Pietro, e la moglie che lo guarda con lo sguardo tra il terrorizzato, l'atterrito, lo stizzito, l'arrabbiato, insomma uno sguardo che dice tutto. Come detto, qui è la politica per quel che riguarda i ribaltoni, staremo a vedere la formazione delle liste, questa settimana vanno consegnati i simboli, c'è tutto uno scadenziario. La politica invece, che parla dei temi, a parte gli slogan, abbasseremo le tasse, questo lo dicono tutti, non c'è. I temi sono per esempio il tema del redditometro, che riguarda tutti gli italiani, e allora leggete sia al Sole 24 Ore a pagina 5 con il campo minato del redditometro 2.0, Giovanni Parente, quasi 3 anni per vedere la luce, pure il redditometro nasconde più di una trappola per i contribuenti, quali sono le trappole? Eccolo qui, intestazioni di bollette, utenze pagate per esempio dall'altro coniuge, ci sono tutti gli inghippi del redditometro, e su questo anche il Corriere della Sera dedica una pagina: redditometro, come controllare le spese, ecco quali sono le soglie Istat degli 007 del fisco, attenzione perché vi arrivano a controllare le spese se da marzo parte il redditometro, poi tutto è sotto controllo, no? Siamo in uno stato di polizia fiscale, qualcuno direbbe. Al di là degli slogan, è interessante questo strumento che dovrà, con cui dovremo fare i conti, il redditometro, cioè il controllo delle spese. Il consiglio è forse tenere tutti gli scontrini in attesa di capire bene come funzionerà. Sta di fatto che arriva il redditometro. Oh, negli ultimi minuti devo segnalare questo. Devo segnalare che ci sono per la cronaca ancora l'aereo sparito a Los Roques, sulla tratta Los Roques Caracas, sul quale c'era anche tra l'altro il figlio dello stilista Missoni. Continuano le ricerche, ci sono i gialli su dove possa essere, non si trova assolutamente nulla. Vi segnalo anche una notizia, 2 pagine di Repubblica. Su che cosa? Sul nuovo business della beneficenza, è una inchiesta sulle attività del terzo settore, che in Italia è sempre più diffuso, sempre più ampliato, e che valgono 400 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ogni anno arruolano 140 milioni di persone. E che però, è vero, da una parte coprono i buchi del welfare dei vari stati, ma sono guidate da logiche simili a quelle di multinazionali e non sempre trasparenti. È il nuovo business della beneficenza, lo voglio sottolineare anche perché è in uscita tra l'altro anche un libro di una nostra collega Valentina Furlanetto, che viene citato nel titolo, nell'articolo di Repubblica di Vladimiro Polchi, che uscirà il 17 gennaio, L'industria della carità, in cui si fa luce, si cerca di far luce proprio su questi fondi milionari che vengono dati a tutte le società che gestiscono questo terzo settore molto molto vasto, spesso in maniera positiva, spesso con logiche soprattutto economiche poco trasparenti. Ci fermiamo qui, peccato, ho fatto un errore clamoroso, non ho portato la Gazzetta dello Sport. Niente, qualcuno mi ricorda il titolo? No, però insomma il Milan ha vinto e molte altre hanno perso, ecco, questo è il succo della giornata di ieri. Beh, si inizia bene il 2013, e ora il GR24. GR24 mattino, l'Italia si desta. E allora siamo qua, sono le 8:15 minuti in punto, eccoci allora a parlare dell'attualità politica, e lo facciamo con il mio primo ospite, visto che rientro oggi, il 7 gennaio di 24 mattino, l'onorevole Renato Brunetta. Buongiorno del Popolo della Libertà. Buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, onorevole Brunetta, ha visto ieri l'intervista di Monti, che ha parlato di IMU da cambiare per dare più soldi ai comuni, di IRPEF che si può alleggerire, di IVA il cui aumento si può congelare, non è detto che accada? Come giudica queste posizioni? Sì, ho visto con grande attenzione l'intervista, in verità un po' confusa, del senatore Monti. Confusa rispetto ai numeri, ne ha dati pochi e quei pochi sbagliati, come quelli sullo spread, per esempio, non sapeva quale fosse stato il beneficio della sua azione, ipotizzato molti, molti miliardi di euro. Ecco, devo dire, da un professore come lui ci si sarebbe aspettata più precisione, più correttezza sui conti dello Stato e anche più coerenza sulla faccenda dell'IMU. Fino a pochi giorni fa aveva tuonato dicendo che chi prometteva l'eliminazione dell'IMU prima casa avrebbe prodotto disastri sulla finanza pubblica. Adesso lui stesso dice che l'IMU va cambiata, non si sa come. Però dice dando più soldi ai comuni, non da abolire. Questa è una stupidaggine, vede, perché l'IMU, una parte dell'IMU va già ai comuni, i quali a loro volta hanno fatto delle aliquote incrementali. Mi è sembrato un Monti del tutto impreparato. E forse dice darne di più, generico, cioè dare una quota generico. Più ampia ai comuni rispetto a quella che viene data attualmente. Sì, ma a parità di gettito o con gettito inferiore? Vede, attualmente l'IMU complessiva da 24 miliardi di euro, sì. 24-25, l'IMU prima casa ne dà circa 4. Il problema è, IMU casa 4, li vuole lasciare o no sulla testa delle famiglie italiane? I 24 sono troppi o sono troppo pochi? Perché questo è il punto. Poi come distribuire questi 24 o questi 4? Questa è un'altra faccenda, cioè se darli allo Stato, darlo ai comuni, dargli allo Stato che poi lo Stato li dà ai comuni, beh, questa è un'altra faccenda. E qui bisogna essere precisi, corretti, indicare i numeri giusti. Dire per esempio che si vuole diminuire di un punto le due prime aliquote, sì, IRPEF. Non vuol dire assolutamente niente, perché sono un pannicello caldo. Ci aveva già provato, vede, con l'ultima legge di stabilità, e il Parlamento, praticamente a stragrande maggioranza, io ero il relatore di quella legge, ha detto di no, perché ridurre di due punticini equivaleva a circa 100-150 euro per tutti, sì, in meno. Per tutti cosa vuol dire? Per lei, per me, per quelli che guadagnano metà di noi e per quelli che guadagnano 10 volte noi. Ma le pare una cosa sensata? Un pannicello caldo. Senta, a proposito buttar via 7-8 sì, miliardi di euro, quanto costa la riduzione di due punticini per un pannicello caldo così? Però a proposito di IMU, Berlusconi ieri ha ribadito invece al primo Consiglio dei Ministri la cancelleremo. Però non è anche questo uno slogan? Cioè si sentono tanti slogan che sono tornati a bastare. Veramente noi l'abbiamo già fatto. Sì, io certo. Ho partecipato a quel Consiglio dei Ministri in cui abbiamo cancellato l'ICI, si chiamava ICI allora, sì, valeva 1,6 miliardi, l'abbiamo cancellata, abbiamo garantito i comuni per la loro quota, che non ci hanno rimesso un euro, e l'abbiamo fatta. Monti molto successivamente, disse che quel 1,6 miliardi aveva scassato i conti pubblici. Mi sembra ridicolo. Però quindi lei ribadisce, nel caso doveste ritornare al governo, primo Consiglio dei Ministri, l'IMU va tolta sulla prima casa. Assolutamente sì. Via l'IMU prima casa, 4 miliardi di euro, abbiamo già indicato le fonti di copertura. Senta, a proposito, ha sentito anche, perché continua un po' questo duello a distanza tra lei e Monti, lei anche oggi sul giornale pubblica tutta una serie di studi, il Fondo Monetario, di ricerche proprio indirizzate al senatore Monti, cioè prendi appunti su questo, caro senatore Monti. C'è stata anche quella battuta sicuramente infelice sulla statura accademica che è riferita a lei, però statura accademica, cioè perché lei l'ha letta in modo infelice come uscita da parte di Monti? Ma guardi, io in questo momento mi sto interessando di cose importanti e serie, come il programma del mio partito, la questione fiscale, la crescita, lo sviluppo. Mi sono dedicato in questi 13 mesi a capire le ragioni della crisi, cercando di studiare quello che probabilmente il professor Monti non ha avuto tempo di fare, di dire numeri giusti possibilmente, cosa che il professor Monti non riesce sempre a fare. Vede, io faccio professore ordinario all'Università di Roma, il professor Monti fa il professore ordinario alla Bocconi. Della mia statura fisica, come dire, ringrazio Dio e ringrazio i miei genitori, e lo dico con un grande sorriso, non credo che gli uomini debbano essere giudicati le loro... Ma lui parlava di statura accademica, però. Sì, però vede, io non me la prendo. Sono un professore ordinario come lo è lui. I miei titoli valgono i suoi, oppure saranno più apprezzati i suoi, meno apprezzati i miei, o viceversa. Queste ironie non servono a nulla in una competizione elettorale. In una competizione elettorale serve la serietà, la coerenza. Il fatto di dire no, non scenderò in campo, e poi uno scende in campo, e cioè il fatto, quello che D'Alema ha stigmatizzato come immoralità, conta, cioè immorale, secondo... interessi. L'ha detto D'Alema e io condivido. Cioè è immorale che Monti scenda in politica o salga? No, non è questo. Vede, Monti era stato chiamato come salvatore della patria, come presidente tecnico, ha ricevuto la fiducia di forze eterogenee, diverse in Parlamento, in ragione del momento difficile che il Paese stava attraversando. Di fatto al Presidente della Repubblica aveva garantito che non avrebbe usato questa sua posizione per una sua avventura politica. Questo non è avvenuto. Vede, per me questo vale molto di più di qualsiasi ironia. In questo c'è l'immoralità di aver utilizzato una situazione per poi giocarsi una propria partita personale. E anche il fatto, vede, che lui adesso in questo momento è presidente del Consiglio per gli Affari Correnti. Che un presidente del Consiglio per gli Affari Correnti usi questa sua funzione, che è presidente del Consiglio a tutti gli effetti, per visibilità e per far politica, questo mi sembra profondamente scorretto. Senta, non so cosa ne pensano i media, cosa ne pensate voi. E vabbè, ognuno ha la propria posizione, sa che poi stiamo entrando in par condicio, non mi faccia già queste domande. Le chiedo questo a proposito di IMU: ha visto che l'ex ministro Tremonti ha proposto dei moduli addirittura per chiedere i soldi indietro con ricorso alla Corte Costituzionale, dicendo che l'IMU è incostituzionale. Tra lei e Tremonti sappiamo che ultimamente non scorreva buon sangue, mi pare, dal punto di vista politico. Ma l'ha più sentito poi Tremonti? No, l'ultima volta diceva no, Tremonti... mi ha chiamato un po' di tempo fa complimentandosi per un mio articolo su Monti. No, questa non ci credo. Tremonti che fa i complimenti, gliela, non ci credo. Gliela garantisco, chieda conferma. Appena finita la trasmissione chiamiamo Tremonti per chiedere conferma. No, ma comunque, lei cosa pensa di questa iniziativa, dei moduli per richiedere indietro i soldi? Guardi, io non sono un avvocato fiscalista come il professor Tremonti, e quindi non me ne intendo. Non se ne intende. Non sa se è un'iniziativa che può avere... Devo dire, se l'ha fatta il professor Tremonti, che è molto bravo, che ha uno studio molto forte, che come professore di scienze e finanze è forse tra i migliori che ci siano in Italia, se l'ha fatta uno come lui, vuol dire che ci sono delle fondamenta solide. Io ripeto, faccio solo l'economista non bocconiano, ecco, adesso mi definirò economista non bocconiano, economista ordinario a non Roma bocconiano. Non bocconiano, ci tende proprio a precisare, non bocconiano. Ma a proposito di IMU, anche lei però ha detto questa che è sembrata a molti una panzana, che le ha dovuto chiedere un prestito alla banca per pagare la rata dell'IMU. Questa sembrava un po' come dire esagerata, Brunetta. Ma vede, io non sopporto l'ipocrisia. Se io dico una cosa e dico che ho dovuto chiedere i soldi perché non li avevo, è la verità. Ma quanto perché ammontava questa? Ma perché? Guardi, la stessa domanda è stata fatta ieri a Monti. Lui ha detto paga mia moglie, ha detto, non lo so. Paga mia moglie. Si occupa io mia moglie. Detto, ecco, io ho pagato tra prima e seconda rata circa 10.000 euro. Io, per i miei impegni, che penso siano legittimi avere, che cerco di onorare, non li avevo e me li sono fatti. Però scusi, solo essendo lei deputato, anche solo una mensilità, 10.000 euro o due mensilità, capito, ma vede, siccome io sono abituato a pagare tutti i miei impegni, tutti i miei... I mutui, eccetera, eccetera. È così grave fare una pianificazione, non prevedere una spesa straordinaria di 10.000 euro e se questa spesa straordinaria di 10.000 euro arriva, non averli. Devo dire, io non ho capito assolutamente lo scalpore, sì, anche da parte sua, perché se lei arrivasse di punto in bianco un pagamento... Ma lo sapeva qualche mese fa, poteva pianificare. La mia pianificazione, come quella di tutti, è su base annuale. I miei mutui funzionano su base annuale, semestrale. Lei ha mutui? Io no, ma... Allora, io sì. E siccome sono abituato a onorare i miei impegni, e ho onorato anche quelli fiscali. Vede, contrariamente a Monti, sì, io ho detto quanto ho pagato. Perché non lo dice anche il professor Monti? E ha detto che non lo sa, che se ne occupa la meglio. Vede che il professor Monti è un po' generico sui numeri, sulle cifre. Un po' prima Repubblica. Può non sapere. Torna la Democrazia Cristiana, secondo te. No, a proposito... Un po' prima... non so se lei ha seguito la trasmissione di ieri. Sì, di quale? Quella di Monti? Del professor sì, Monti? Sì. Io sì. Ecco, mi è sembrato molto democristiano. Molto democristiano. Con tutto il rispetto dei democristiani. Senta, a proposito invece di alleanze, PDL e Lega. La Lega vuole allearsi col PDL, a parte che non si candidi Silvio Berlusconi premier. Secondo lei, Silvio Berlusconi, candidato premier, è un ostacolo in questo momento a un'eventuale alleanza con la Lega, oppure il PDL deve tenere duro? Cioè, il nostro candidato è quello, è Berlusconi. Bene, il leader della coalizione è e deve essere il presidente Berlusconi. Non c'è alcun dubbio. Non c'è scritto da nessuna parte che il leader della coalizione debba essere anche il premier. Così di fatto è stato nelle applicazioni del cosiddetto Porcellum negli ultimi anni, però non è scritto da nessuna parte. La legge prevede si possa e si debba scrivere quando si presentano le coalizioni il leader della coalizione. Il leader della coalizione per noi sarà Silvio Berlusconi. Poi chissà cosa succederà dopo le elezioni. Quindi... Anche su Bersani chissà cosa succederà. Sì, però effettivamente è consuetudine che poi il leader venga indicato anche quando ci sono le consultazioni come il possibile premier, poi sceglie il capo dello Stato, questo è certo. Però vede, se nessuna, non ci sarà per esempio maggioranza omogenea tra Camera e Senato. Sì. Molto probabilmente si dovrà trovare un'altra soluzione che non il leader della coalizione che ha vinto la Camera o della coalizione che ha vinto il Senato o cose simili. Quindi la politica è l'arte del possibile, quindi non mi bloccherei su queste formalismi. L'unica cosa da dire è che la legge elettorale prevede che quando si depositano le coalizioni per avere il premio di maggioranza, ricordiamolo gli ascoltatori, perché esistono le coalizioni. La coalizione esiste perché la coalizione, se vince, ha il premio di maggioranza. Sì. E quindi la coalizione deve avere un leader per poter dire queste liste sono all'interno di questa coalizione e queste liste beneficeranno del premio di maggioranza. Sì. Però mi faccio tornare un attimo sull'IMU, perché questa effettivamente non gli ho chiesta. Perché se lei era contrario all'IMU, lei il PDL è contrario all'IMU, promette di abolire l'IMU la prima casa, l'avete votata in Parlamento la reintroduzione quando c'era Monti? Come abbiamo votato le altre 51 fiducie, come abbiamo votato perché? Anche gli altri provvedimenti, per un senso di responsabilità, perché avevamo tutti la pistola puntata alla tempia dell'Europa, dello spread, di Angela Merkel. Sembrava che se non si accettassero i numerosissimi decreti legge, spesso inutili, di Monti, tutto sarebbe crollato. Tra l'altro, personalmente ero, forse lei l'ha letto da qualche parte, ero contrario fin dal primo momento ad appoggiare il governo tecnico. Una volta che però il partito ha deciso, noi abbiamo coerentemente supportato l'esperienza del governo tecnico, salvo poi alla fine spiegare come fosse stato un errore è del tutto inutile, quindi anche un po' di autocritica certamente. Un'ultima domanda è questa, che non c'entra niente con la politica italiana, ma secondo lei Gérard Depardieu fa bene ad abbandonare la Francia sull'ipotesi poi saltata di mettere una 75, oltre 75% di tasse per chi guadagna oltre una certa soglia, insomma una super patrimoniale? Adesso pare sia andato anche in Russia, anzi è andato in Russia, accolto da Putin. Fa bene, perché è un tema molto sentito anche in Italia, diciamo fare questa cosa contro lei. Io non l'avrei mai fatto. Lei non l'avrei mai fatto. Cioè, di fronte a un'elevata tassazione, andarsene da un paese. Il mio paese. È l'Italia. Va bene, la ringrazio. Buona giornata. Lei sì. Non paga l'IMU, no? Non paga l'IMU. No, non ho una casa. Ha proprietà, ha altri tipi di consumi, altri tipi di investimenti. No, quindi non mi può chiedere quanto pago, perché non, zero pago, ma non avendo proprietà pago zero. E che tipi di investimenti ha, mi scusi? Vabbè, ho qualche curiosità. Ho qualche botto, ho qualche investimento così in banca, ma non ho grandi fondi da investire, non ho grandi. Ecco, vedi, è una decisione. Così lo sanno tutti, no? Io non ho nessun botto, non ho nessun altro investimento di tipo immobiliare. Ho solo investimenti in mattoni molto tradizionali in mattoni, e sono costretto a pagare anche sulla casa in cui abito. Di solito un affitto praticamente nella casa in cui abito. Questo è il paradosso. E per questa ragione, lo si spiega agli ascoltatori, noi vogliamo abolire l'IMU sulla prima casa. Perfetto. La ringrazio, buona giornata. Grazie per essere stato con noi, Renato Brunetta, il Popolo della Libertà. Noi tra qualche minuto, pochissimi minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, parliamo anche di quella che è la campagna elettorale, che però si sta svolgendo molto in TV, no? È iniziato soprattutto Silvio Berlusconi con tante comparsate in TV, a cui risponde quasi quotidianamente Mario Monti. Addirittura oggi su Repubblica Francesco Merlo li definisce Tom e Jerry, no? Che si inseguono un po' come i famosi cartoni, Tom e Jerry, il gatto e il topo, si inseguono con dichiarazioni. Che ne pensate di questa campagna elettorale, che anche ieri ha visto un'intervista di Mario Monti, che doveva andare da Giletti, che sarà nostro ospite, ma non si è presentato da Giletti perché in Rai era vietato durante le ferie ospitare politici, dichiarazioni, interviste fiume in cui si promettono Mari e Monti, nel senso di Mari e Monti della politica. Di questo parliamo tra pochissimo, anche con il vostro contributo. 24 mattino. E allora sono le 8:35 minuti, quando noi avevamo l'onorevole Renato Brunetta, e praticamente in contemporanea le agenzie hanno battuto questa notizia di Silvio Berlusconi, che ha dichiarato che è stata nella notte siglata l'alleanza con la Lega. L'1:30 di questa notte, ha detto Silvio Berlusconi, è stato firmato l'accordo tra noi e il Carroccio. Ho firmato io e Maroni, che sarà il candidato in Lombardia, mentre io sarò il leader dei moderati. Il premier sarà da decidere nel caso in cui vincessimo. Questo ha detto Silvio Berlusconi. Allora, oggi Francesco Merlo su Repubblica ha paragonato Silvio Berlusconi e Mario Monti a Tom e Jerry, per le loro dichiarazioni che si rintuzzano quotidianamente in TV con una serie di interviste. Anche poco fa Berlusconi ha dichiarato queste cose in un'intervista radiofonica. E ieri, tra l'altro, Mario Monti doveva essere da Massimo Giletti, che saluto. Buongiorno Massimo e benvenuto, eccoci qua. Buongiorno. Doveva essere da Giletti, ma era Epifania. Ma come avete fatto a fare questo errore clamoroso? Avevano detto in Rai che durante le ferie, i giorni di festa proprio, non si poteva invitare i politici. Chi va a invitare Massimo Giletti? Mario Monti. Ma in effetti, voglio dire, credo che qualsiasi tipo di programma come il nostro, che fa 4 milioni e mezzo, sia un punto di riferimento per un uomo politico. Il problema è semplicissimo, credo che abbia poi apertamente anche dichiarato Monti in un'intervista successiva. Noi abbiamo cercato Monti tanto tempo fa, quando era Presidente del Consiglio e solo Presidente del Consiglio. Mentre io ero a Napoli il 31 sera, mi è arrivata una chiamata e io ho fatto presente che probabilmente c'erano delle difficoltà, visto la disposizione che mi sembra fosse del 19 dicembre, no? Nelle indicazioni del Consiglio d'amministrazione Rai. Però è chiaro che se qualcuno dice ma vediamo se si può fare, l'Italia poi è il posto, il paese dove a volte si riescono a fare cose anche in violazione di, tra virgolette, di accordi. Sì, sì. E invece, invece no. Infatti ieri è andata a Sky. Vi hanno, sì, ma la, ma è, no, vi hanno fregato. Si è creato un caso sul nulla, nel senso che noi ho letto che la RAI prima ha chiesto la cerca... Era molto chiaro che le regole piacciono o meno, ma la regola era quella. Giorno di ferie, sì, no. Non si poteva avere. Non si poteva ma avere, tra poi altro... è stato montato un caso perché secondo me c'è questa... grande voglia di essere ovunque, quindi ma questo anche... è incredibile, questo è incredibile. Non so se sono Tom e Jerry. No, non è incredibile. Beh, no, vabbè, ma devo dire che per ora solo loro due sono così, così visibili o smaniosi di visibilità. Berlusconi era stato un po' in silenzio, devo dire. Ma adesso non passa giorno senza che non ci siano interviste, esondano un po' ovunque. Però Massimo, fammi salutare il senatore Alessio Butti. Buongiorno, senatore Butti, eccoci qua. Buongiorno. Lei fa parte di Fratelli d'Italia, Centrodestra Nazionale, fa parte anche della commissione Vigilanza Rai, dove c'è stata anche una riunione fiume, credo, nei giorni scorsi per parlare. Allora, cosa sta succedendo, Butti? A lei piace questa esondazione per ora di due protagonisti della politica, Berlusconi e Monti? Adesso non stiamo a fare col bilancino se uno ha fatto un'intervista più degli altri, ne ha fatte sicuramente più Berlusconi negli ultimi tempi, però diciamo sono i due più visibili in questo momento mediaticamente. Va bene tutto così, Butti? No, non va bene tutto così, se poi lei considera che nei 4 mesi precedenti noi siamo stati letteralmente inondati dalle primarie del Partito Democratico, certamente il PD ha sfruttato sotto profilo della comunicazione al massimo questo strumento delle primarie, e certamente non va bene così. Se poi considera che la legge a cui tutti fanno riferimento, che è la legge sulla par condicio, che è la 28-2000, voluta, lo ricordo perché bisogna contestualizzarla, dal governo D'Alema, perché sì, nel 1999 alle europee, usando il mezzo televisivo, sia la Bonino che Berlusconi strariparono elettoralmente, sì, sì, parlando, no? Per cui imposero il bavaglio. Ora, o il bavaglio c'è e c'è per tutti, oppure il bavaglio lo togliamo. Però non è ancora entrata in vigore la par condicio, entrerà credo domani, oggi forse, domani. Beh, guardi, la par condicio ha due fasi, come sì, lei ben sì, sa, e come sicuramente sa anche Giletti, forse questo lo sanno un po' meno i vostri radioascoltatori. Ha due fasi, una è quella propriamente detta della campagna elettorale, invece l'altra è quella che anticipa la campagna elettorale di circa 20-25 giorni. Ma comunque sia, quello che noi diciamo è che Monti, che spesso dà lezione come i professorini e i maestrini, che ha detto qualche tempo fa io nomino un presidente della RAI e un direttore generale perché voglio cacciare i partiti dalla RAI, e poi utilizza lo strumento RAI della comunicazione come lo sta utilizzando lui, a noi non sta bene. Non sta io bene. Ho ancora negli occhi e nelle orecchie la conferenza stampa istituzionale di fine legislatura del presidente Monti, a reti unificate. Tutti sanno che non è stata la conferenza stampa di fine legislatura, ma è stato il lancio di un leader politico, di un soggetto politico, e addirittura abbiamo assistito al TG2 che ha soppresso l'edizione più importante per mandare Monti. Ma che doveva fare Monti? Non fare la campagna istituzionale, che non, lei dice non è stata istituzionale, non doveva fare la conferenza stampa di fine anno? Avrebbe dovuto farla col suo aplomb che tutti gli riconoscono e che poi invece non parlo di non futuro. Farlo a livello partitico, a livello politico, tirarsi fuori questi sassolini contro Bersani, contro Berlusconi, contro il centrodestra in genere, francamente non è stato elegante, non è stato bello. Ha utilizzato il servizio pubblico, doveva farlo come presidente del Consiglio uscente. E punto. Qua sarà una campagna elettorale di quelle proprio che ci farà sudare la fronte. Perché poi Massimo Giletti, quanto spostano effettivamente, secondo te, tu giustamente hai ospitato Berlusconi, e tra poco magari sentiremo anche l'epico battibecco, volevi ospitare molti, probabilmente lo ospiterai, ma quanto vale davvero? Quanta c'è di penetrazione del messaggio che mandano agli elettori? Perché... Io mi ricordo che quando lavoravo a Mixer con Giovanni Minoli e mi occupai della campagna per le presidenziali americane, all'epoca c'era un signore sconosciuto che si chiamava Ross Perot, che era un multimiliardario americano, certo. E il quale investì una cifra altissima, gli do milioni di dollari, e in poco tempo, in un paio di mesi, alla fine riuscì con spot, immagini e quant'altro a raccogliere il 19, quasi il 20% dei consensi degli americani. Quindi questo si fa capire come anche uno sconosciuto che parte da zero, se ha denaro può arrivare. È ovvio che la televisione arriva. Il problema è che noi continuiamo, e questo sono un po' d'accordo con quanto diceva l'onorevole Butti, cioè nel senso che io mi aspettavo con Monti anche una maggiore attenzione, spostare quello che è il centro del dibattito sui temi, no, sì, da questo eterno chi, no? Dall'anti-berlusconismo continuo, dall'altra parte, dal chi a quel che cosa si deve fare e come. Invece siamo ancora sempre alla lotta tra le personaggi. Lotta tra personaggi. Vogliamo sentire un momento della lotta personale? Perché poi devo fare. Me ne vado, Presidente, io la saluto e me ne vado. Non si può parlare così di una cosa importante. Siamo in un periodo elettorale. Lei non consente al leader di quella che voi dite sia l'opposizione di spiegare pianamente agli elettori che ci ascoltano come stanno le cose, è inutile che io venga qui in una trasmissione come la sua. Poi l'accusa di disinformazione, Massimo, al solito Berlusconi, non è che si può. Di la verità, un attimo speravi di creare il caso Annunziata bis, no? No, ha fatto tutto per non farlo creare. No, questo è vero. Ma io penso che sarebbe stato un errore creare un'Annunziata bis. Io però ho un'idea, tant'è che lui, rimanendo dopo, ha accettato il dibattito, quindi questo è stato importante. Io non ho cambiato il modo di fare l'intervista, perché le domande gliele ho continuate a fare, però lui quel giorno, secondo me, e rifaccio a quello che diceva Butti, è arrivato molto teso, perché un paio di ore prima, 2 o 3 ore prima, c'era stata questa conferenza di Monti, e credo che quella, psicologicamente, quella conferenza molto dura, anche lessicalmente, nei suoi confronti l'abbia colpito. Secondo me sì. Gossip del quale devo chiederti conferma: è vero che ha chiesto che venisse abbassato la temperatura in studio prima di entrare in onda? Ma guarda, se l'avesse chiesto io sarei contento, perché io soffro terribilmente il caldo. Ma l'ha chiesto? È stata abbassata su ordine di Silvio Berlusconi questa è la domanda clou. Non risponde. Non lo so, perché io sono dall'altra parte. Io arrivo nello studio, quando lo studio già hai sentito un po' più freddo, un po' più fresco quel giorno. No, io mi sembra che la temperatura fosse abbastanza calda per far sì che uno non sentisse il freddo, il caldo. Ma non credo di svelare nulla, lo sanno tutti, anche nella famosa intervista a Minoli, che fece Minoli, che fu la prima televisiva in Rai nel 94, lui mandò un gruppo di persone, perché è un uomo molto attento a tutto quello che succede come immagine. Certo. Da noi ha ottenuto un tavolino, ecco, quello sì. Il tavolino. Ma non mi risulta che abbia chiesto di abbassare la temperatura. Se è vero, io l'ho trovata normale. L'hai trovata la temperatura solita. Intanto 8.45, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Siamo con Massimo Giletti, con il senatore Alessio Butti, che fa parte della commissione, del comitato, commissione Vigilanza Rai, per parlare di TV, di esondazioni, insomma, di interviste in questa campagna elettorale. 800 24 00 24, entriamo tra poco. Eccoci qui alle 8.47 minuti. Allora, vorrei sentire come ascoltatori Carmine da Napoli che ci ha chiamato. Stiamo parlando di TV e di politica, questa campagna elettorale. Carmine, buongiorno. Pronto, buongiorno e auguri. Grazie. La ringrazio di avermi chiamato e vorrei parlare di Monti. Sì. È un personaggio che ha dato un po' sospetto a quella che ha detto di quanto è iniziato con il suo governo, che doveva fare quello che doveva fare. Adesso sta ritrattando tutto, ha detto che non si candidava in politica, cosa che non è stato vero, cioè ha sfruttato il suo tecnico per entrare in politica. Sì, non ha mai detto in maniera esplicita non mi candiderò, cioè sì, ha detto qualche volta dovranno continuare i politici, non ha detto mai esplicitamente non mi candiderò mai più, però effettivamente è cambiato molto. E a lei non piace questa cosa? Nel modo più assoluto, cioè non è credibile. Non è credibile, come non sarà credibile che disse che adesso dice abbasserà l'IMU, e non ci credo, perché lui l'ha portato, no, e così via. Vorrei sapere solo una cosa: perché ha rifiutato lo stipendio da ministro, presidente del Consiglio, e si è fatto forte di quelle del Senato. Perché non ha rifiutato quelle del Senato? Perché erano troppo forti i soldi? Cioè dovrebbe ma non credo che sia una questione di soldi. Cioè secondo lei dovrebbe rifiutare la nomina senatore la carica, sarebbe uno sgarbo istituzionale non male. Io invece la faccio sotto aspetto economico. Essendo un pensionato di 560 euro e lui 33.000 Monti, euro al mese. Monti no, capisce che non credo che Monti abbia bisogno del pur lauto stipendio da senatore a vita. E benissimo, ecco, non credo. Benissimo. Vabbè. Benissimo. Comunque Carmine, a me non piace. Grazie per il suo intervento, vorrei andare da Alberto, dalla provincia di Padova. Buongiorno Alberto. Sì, buongiorno. Senta, io sto seguendo un po' questa campagna elettorale. Sì. Ho sentito sempre imputare al movimento di Grillo il fatto di essere un movimento populista, di parlare di temi populistici, eccetera, eccetera. Però poi, ascoltando le altre forze politiche, Monti, Berlusconi, Bersani e tutti, mi sembra che i temi siano assolutamente identici. Cioè, non capisco che differenza ci sia nella sostanza. Cioè, Monti va, Berlusconi dice toglieremo l'IMU, Monti dice bloccheremo l'IMU. Alla fine, che differenza c'è? La differenza. Monti ha detto l'IMU è da ricalibrare e dare più soldi ai comuni, ma non ha detto di togliere l'IMU, anzi ha detto che è una follia. No, l'ha detto Berlusconi, questo intendevo Berlusconi, dire. Berlusconi, certo. Ha detto di togliere l'IMU. Ma Monti anche lui dice abbasseremo le tasse. Il tema reale secondo me è dove andranno a cercare questi soldi, visto che a quanto ho capito io questi soldi servono, per cui dove si andrà a tagliare, non insomma tanto... sente slogan soprattutto, cioè, alla fine sì, a che differenza c'è allora tra quello che dice Grillo, che parla a slogan secondo alcuni, e quello che dice Monti? Cioè, ma la campagna elettorale è un po', e la politica è un po' fatta di slogan e di promesse. Che cos'è in fondo la campagna elettorale? Prometteremo agli elettori che in 5 anni di mandato, se ci votate, noi faremo questo. Cioè, il problema non è tanto le promesse elettorali, il problema è che c'è una classe politica che per molti cittadini ha promesso per 20 anni e non ha fatto nulla, e quindi uno non ci crede più, perché fessi sì, ma stupidi all'ennesima potenza magari no. Andrei a Milano da Alessandro, poi torno dagli ospiti. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, aspettavo che tornasse lei dalle sue, penso, ferie. Ferie, si può dire. Se non è un'offesa, siccome non sapevo se era per me. No, siccome io la sento sempre, lei qualche tempo fa, forse un mese e mezzo fa, intervistò Saviano, che utilizzò per la prima volta il termine salire in politica. Anzi, lei notò questa espressione, lo lodò e così via. Ecco, se oggi come oggi Berlusconi utilizzasse quell'espressione, saremmo qui tutti a dire che copia le espressioni degli altri. Di Monti invece no, perché lui è da santificare in qualunque momento. In realtà Saviano non l'ha detto per la prima volta, è da tempo che Saviano diceva bisognerebbe salire in politica, non è una... Perfetto, per cui adesso che la utilizza Monti, perché diciamo che lui cambia il linguaggio della politica? Invece ha copiato, benissimo. Se l'avesse fatto Berlusconi saremmo qui a dire Berlusconi copia, Monti nulla. Vabbè, insomma, grazie Alessandro. Allora io tornerei dal senatore Butti e da Massimo Giletti. Butti, qua la questione è semplice: i cittadini colgono che non si parla per nulla delle cose da fare, ma è solo per il momento. Certo, pure non se vuole si va a leggere i programmi, eccetera, ma per il momento è solo una serie di slogan, cioè di battute contro battute. Non so se anche lei li paragonerebbe a Tom e Jerry per il momento, come ha fatto Merlo su Repubblica. Però è bellissima la fotografia di Tom e Jerry. Credo che sia assolutamente calzante, ma guardi, mi calo un po' rispetto a quello che dicevano i suoi radioascoltatori, ma anche il tema della puntata e a quello che diceva giustamente Giletti poco fa. La televisione conta, e conta tantissimo. La dimostrazione è che utilizzando il web e la politica scandalistica, Grillo negli ultimi 15 giorni, cioè quando la televisione è entrata pesantemente nella campagna elettorale, e Berlusconi, Bersani e Monti la sanno fare evidentemente bene, Grillo ha cominciato a scendere. Quindi la televisione conta tantissimo e anche in questa campagna elettorale sarà così. La seconda questione è che gli ascoltatori hanno ragione, ci sono solo slogan. E allora, ad esempio, se a Fratelli d'Italia, e quindi a Giorgia Meloni, a Guido Crosetto e alla Russa venisse consentito di andare in televisione così come viene consentito alle altre forze, noi parleremmo ad esempio delle imprese. Noi abbiamo un programma che non utilizza slogan, ma ha dei capitoli interi dedicati alle imprese, alla burocrazia che assilla le imprese e il cittadino. che non facilita l'accesso al credito, una burocrazia che non può facilitare in queste condizioni l'accesso al credito. In questa campagna elettorale le pare possibile, Milan, che nessuno parli di politica estera dopo quello che è successo nel Mediterraneo? Che sta succedendo in Siria, per esempio. Che sta succedendo che in significa? No, ma prima o poi si parlerà prima o poi di queste cose. Il problema ma è che insomma, però... noi vorremmo, Fratelli Italia vuol parlare di questo, perché quello che sta accadendo nel bacino del Mediterraneo investirà l'Italia, anche economicamente parlando, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in maniera tremenda. Nessuno parla dei temi etici, ma insomma qui i cattolici, io ho letto l'endorsement che l'Osservatore Romano aveva fatto all'epoca, poi pentendosi per Monti, ma sulle questioni etiche, i cattolici, ma dove sono? Su questo devo dire, Massimo Giletti, quanto si parla di, in realtà di domande anche sui temi, tu le fai su quello che si propone come soluzione per salvare il paese, però effettivamente c'è molta immagine che è un po' un segreto della TV e poca sostanza, o no, o sbaglio? Lo so, ma è quello che più o meno hai sentito anche da chi ha telefonato. Cioè, alla fine noi abbiamo a che fare con le tasse, con i salari, le pensioni, le banche, la politica industriale, questa è la ricerca, cioè le cose concrete. Ecco che allora qui, quando si dice destra e sinistra non esistono più, si dice una grande fesseria. Destra e sinistra esistono e devono esistere nel momento in cui scelgono. De Gasperi l'ha sempre sostenuto, oggi i politici non hanno il coraggio di fare scelte, questa è la vera. Io, guarda, ho fatto attacchi pesanti a un certo tipo di politica, perché poi non si può generalizzare, perché poi si spinge l'antipolitica, che è una cosa gravissima. Però la vera cosa è, il vero guaio di questa nostra politica italiana è non scegliere, nel far perdere la fiducia ai cittadini che le loro riforme sono vent'anni che sentiamo parlare di riforme, anche Monti ne parla, ma non ci si crede più, perché non ci si riesce mai, neanche un governo tecnico è riuscito a fare quella che doveva essere una riforma importante, simbolica, vera, una riduzione dei parlamentari, seria, perché non è pensabile che l'America sia gestita da 400 senatori onorevoli e noi ne abbiamo ancora 900. No, ma infatti è la sfiducia che c'è generalizzata sui temi, però ragazzi, c'è tempo per invece riacquistare questa fiducia. Io intanto vi ringrazio, Massimo Giletti, senatore Butti, ci ritroviamo domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.